Il terzo anello, ad alta voce. Aldo Busi legge la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll, per Edizioni Feltrinelli. Un tè fuori di sé. Davanti alla casa, seduti a un tavolo sistemato sotto un albero, la lepre marzolina e il cappellaio stavano prendendo il tè. In mezzo a loro era seduto un ghiro semiaddormentato su cui gli altri due tenevano i gomiti appoggiati facendo conversazione al di sopra della sua testa. «Molto scomodo per il ghiro», pensò Alice, «però, visto che dorme, forse non ci fa neanche caso». Il tavolo era grande, ma i tre se ne stavano pigiati in un angolo. «Tutto esaurito! Tutto esaurito!» presero a gridare scorgendo Alice che veniva verso di loro. «Esauriti sarete voi», disse Alice indignata, e si sedette in un'ampia poltrona a un capo del tavolo. «Un goccetto di vino?» disse la lepre marzolina in tono incoraggiante. Alice guardò bene tutto intorno, ma c'era soltanto il tè. «Io non lo vedo il vino», osservò lei. «Ah, bella scoperta, non c'è», disse la lepre marzolina. «E allora non è stato da persona beneducata offrirmelo», disse Alice indispettita. «Oh, sei stata beneducata tu a sederti senza essere stata invitata», disse la lepre marzolina. «Non sapevo che la tavola fosse tutta vostra», disse Alice, «è apparecchiata altro che per tre». «Sarebbe ora che ti tagliassi i capelli», disse il cappellaio. Era rimasto a guardare Alice per un bel pezzo con grande curiosità e queste erano le sue prime parole. «Non sta bene criticare gli altri», disse Alice con una certa severità, «è da maleducati». Il cappellaio sgranò gli occhi nel sentire ciò, ma si limitò a dire: «Che differenza c'è fra un corvo e un tavolino?» «Oh, adesso viene il bello», pensò Alice. «Sono contenta che comincino a fare gli indovinelli». E a voce alta soggiunse: «Ci si può arrivare!» «Vuoi dire che pensi di poter trovare la risposta?» disse la lepre marzolina. «Proprio così», disse Alice. «Allora dovresti dire quello che pensi», continuò la lepre marzolina. «Lo faccio sempre», rispose Alice d'un fiato. Almeno penso quel che dico, che è la stessa cosa, no?» «Non è la stessa cosa per niente», disse il cappellaio. «Sarebbe come dire che vedo ciò che mangio è la stessa cosa di mangio ciò che vedo». «Sarebbe come dire», aggiunse la lepre marzolina, «che mi piace ciò che prendo è la stessa cosa di prendo ciò che mi piace». «Sarebbe come dire», soggiunse il ghiro che sembrava parlare nel sonno, «che respiro quando dormo è la stessa cosa di dormo quando respiro». «Ma è la stessa cosa per te», disse il cappellaio. E qui la conversazione languì e i convitati rimasero in silenzio per qualche minuto, mentre Alice passava in rassegna tutto quello che sapeva su corvi e tavolini, cioè non molto. Get her flat on her back like that. She leaves in the middle of the program. Get her flat on her back like that and give her a snack. leader. Snap, hey, snap. Get her flat on her back and help a peter. Snap, and you're a snap. Snap. Fill it up, boys. Fill it up. Snap! Better leader. Zoom some blood on your street. I bet you we just think you meet because I have a snack problem. Help a bleeder. Fill it up. Give her flat on her back like that. Give her a snack. And she leaves in the middle of the program. She leaves and she leaves. When the bleeder fills it up, she leaves you sitting there. Bleeder. With nothing but a bleeder. Snack to keep you. A bleeder. Would you like a snack? Help a bleeder. Would you snack. Like a snack? Fu il cappellaio a rompere il silenzio. Quanti ne abbiamo oggi? Disse rivolto ad Alice. Aveva tirato fuori l'orologio di tasca e lo guardava perplesso, scuotendolo di continuo e portandoselo all'orecchio. Alice stette a pensarci un momento e poi disse: 4? Sgarra di 2 giorni, sospirò il cappellaio. E te l'avevo detto io che il burro non andava bene per le rotelle, aggiunse guardando storto la lepre Marzolina. Ma era burro imparzialmente scremato! Si scusò remissiva la lepre Marzolina. «Sì, ma devono esserci finite dentro delle briciole», brontolò il cappellaio. «Non avresti dovuto spalmarlo dentro con il coltello del pane?» La lepre Marzolina prese l'orologio e se lo rigirò fra le mani con aria desolata. Quindi lo pucciò nella sua tazza di tè, tornò a guardarlo, ma non le venne in mente nient'altro che la sua osservazione di prima. «Il burro imparzialmente scremato è il migliore, ti dico!» Alice sbirciò da sopra le sue spalle, incuriosita. «Che orologio strano!» osservò. «Dice i giorni del mese, ma non le ore del giorno. E perché dovrebbe?» borbottò il cappellaio. «Il tuo orologio segna forse che anno è?» «Certo che no!» ribatté prontamente Alice. «Ma solo perché un anno resta tanto di quel tempo tutto in una volta. Beh, il mio nemmeno!» disse il cappellaio. Alice non sapeva più che pesci pigliare. L'osservazione del cappellaio sembrava non avere alcun significato, eppure stavano parlando la stessa lingua. «Temo di non capire», disse gentilmente, più che poté. «Il ghiro si è riaddormentato», disse il cappellaio, e gli versò un po' di tè bollente sul naso. Il ghiro scosse la testa seccato e disse senza aprire gli occhi: «Ma certo, certo, è proprio quello che stavo per dire io». «Allora, hai risolto l'indovinello?» disse il cappellaio rivolgendosi di nuovo ad Alice. «No, mi arrendo», rispose Alice. «Qual è la soluzione?» «Oh, non ne ho la più pallida idea», disse il cappellaio. «Io neanche», disse la lepre Marzolina. Alice sospirò spazientita. «Mi pare che potreste impiegare meglio il vostro tempo, invece di gingillarvi con esso facendo indovinelli senza risposta». «Oh, se tu conoscessi il tempo come lo conosco io», disse il cappellaio, «non parleresti di gingillarti con esso. È un lui, lui». «Non capisco che vuoi dire», disse Alice. «Naturale che no», disse il cappellaio scuotendo sdegnosamente la testa. «Scommetto che tu col tempo non ci hai mai neanche parlato». «Forse parlato no», rispose Alice cautamente, «ma so che quando studio musica devo battere il tempo». «Ah, ecco spiegato tutto», disse il cappellaio. «Lui non tollera di essere battuto. Invece, se fossi in buoni rapporti con lui, ti sistemerebbe le lancette secondo come ti gira. Per esempio, immagina che siano le 9 del mattino, ora di cominciare le lezioni. Basterebbe dirgli una parolina e via che le lancette si spostano in un batter d'occhio su 12:30, pronto in tavola». «Magari», mormorò tra sé e la lepre Marzolina. «Oh, sarebbe il massimo proprio», disse Alice pensierosa, «ma poi potrei anche non aver fame». «Non subito, forse», disse il cappellaio, «ma potresti tenerlo fermo su 12:30 finché ti pare». «È così che fate voi?» chiese Alice. Il cappellaio scosse tristemente il capo. «Io no», rispose. «Abbiamo litigato il marzo scorso, giusto prima che lei, questa qua, diventasse matta, capisci?» E agitò il cucchiaio verso la lepre Marzolina. È stato al Super Festival organizzato dalla Regina di Cuori. Io dovevo cantare Brilla, brilla, pipistrella, se sei ciucca sei più bella. Forse conosci la canzone? Ho già sentito una cosa simile, disse Alice. Poi fa così, continuò il cappellaio, ricordi? Voli sgamba, notte fonda, ciucca marcia, ma gioconda, brilla, brilla. A questo punto il ghiro si riscosse e si mise a canterellare nel sonno. Brilla, brilla, brilla, brilla. E continuò così a lungo che dovettero dargli un pizzicotto per farlo smettere. Morale, non avevo neppure finito la prima strofa, disse il cappellaio, che la regina balzò in piedi e gridò con voce sincopata: stanno ammazzando il tempo! Vai a darci un taglio! Brrr, che sanguinaria! Esclamò Alice. E da allora, continuò il cappellaio con voce lamentosa, lui non vuole più fare niente di quel che gli chiedo. Adesso sono sempre le 6. Alice ebbe un lampo di intuizione. Allora è per questo che ci sono tutte queste tazze da tè? Sì, proprio per questo, disse il cappellaio con un sospiro. È sempre l'ora del tè e non abbiamo neanche un minuto per sciacquare le tazze fra un sorso e l'altro. Così dovete sempre cambiare posto, vero? Disse Alice. Proprio così, disse il cappellaio. Man mano che le tazze sono sporche, ci spostiamo. Ma che succede quando ricominciate il giro? Si arrischiò a chiedere Alice. E se cambiassimo argomento? Interruppe la lepre Marzolina con uno sbadiglio. Mi sta andando il latte alle ginocchia. Propongo che la signorina qui presente ci racconti una storia. Spiacente, ma non ne so, disse Alice piuttosto allarmata dall'invito. Allora tocca al ghiro, urlarono insieme gli altri due. Sveglia ghiro! E presero a pizzicarlo da una parte e dall'altra. Lentamente gli occhi. Mica dormivo, disse con una vocina roca roca. Ho sentito tutto quello che stavate dicendo, carini. Raccontaci una storia, disse la lepre marzolina. Sì, ti prego, supplicò Alice. E un po' alla svelta anche, concluse il cappellaio, o ti riaddormenti prima di averla terminata. C'erano una volta tre sorelline, cominciò il ghiro in tutta fretta, chiamate Elsie, Lassie e Tilly, che vivevano in fondo a un pozzo. E di che cosa vivevano? Disse Alice, che nutriva sempre un profondo e vivace interesse per le questioni di cibarie. Vivevano di melassa? Disse il ghiro dopo averci pensato un paio di minuti. Ma non stanno in cielo né in terra, osservò Alice più gentilmente che poteva. Si sarebbero ammalate. Infatti lo erano, disse il ghiro. Ammalatissime. Alice cercava di immaginarsi una vita così fuori dal comune, ma era roba da perderci la testa. Così continuò. Ma perché abitavano in fondo a un pozzo? Ma prendine di più di te, disse la lepre marzolina Alice con estrema serietà. Se finora non ne ho avuto nemmeno una goccia, rispose Alice piccata, non posso certo prenderne di più. Vuoi dire che non puoi prenderne di meno, disse il cappellaio. Prenderne di più di niente è facilissimo. A te nessuno ti ha chiesto niente, disse Alice. E poi sarei io quello che critica, esclamò il cappellaio trionfante. Alice non sapeva proprio cosa ribattere, perciò si versò un po' di tè e prese una tartina imburrata, quindi si rivolse al ghiro e ripeté la domanda. Perché le tre sorelline abitavano in fondo al pozzo? Il ghiro impiegò di nuovo un paio di minuti per pensarci su e poi disse «Era un pozzo di melassa». «Ma non esistono!» saltò su Alice alquanto stizzita, ma il cappellaio e la lepre marzolina le fecero «Zzzz!» e il ghiro immusonito osservò «Cerca di essere un po' più educata, se no la storia te la finisci da sola». «No, per favore, va avanti!» disse Alice. «Non ti interrompo più! Dopotutto può darsi che uno ne esista!» «Altro che uno!» disse il ghiro indignato, ma continuò ugualmente. Orbene, devi sapere che le tre sorelline stavano imparando a disegnare schizzi. Schizzi di che cosa? Disse Alice, dimenticandosi subito della promessa. Di melassa? Disse il ghiro, stavolta senza un attimo di riflessione. Voglio una tazza pulita, disse il cappellaio. Spostiamoci tutti di un posto. Detto fatto, il ghiro lo seguì. La lepre marzolina andò al posto del ghiro e Alice, piuttosto contrariata, prese il posto della lepre marzolina. L'unico a essere avvantaggiato dal cambiamento era il cappellaio, mentre Alice era messa molto peggio di prima, visto che la lepre marzolina aveva appena rovesciato il bricco del latte nel suo piatto. Alice non voleva offendere ancora una volta il ghiro e con molta cautela modulò un «Ma io non capisco, da dove li prendevano le tre sorelline questi schizzi di melassa?» «Oh, se si possono prendere schizzi d'acqua da un pozzo d'acqua», disse il cappellaio, «converrai che si potranno anche prendere schizzi di melassa da un pozzo di melassa, no? Grulla!» «Ma loro stavano dentro il pozzo», disse Alice al ghiro, decidendo di sorvolare su quest'ultimo epiteto. «Oh, ma certo che stavano dentro il pozzo», disse il ghiro. «Non farmi uscire pozzo!» Questa risposta sconcertò a tal punto la povera Alice che per un po' lo lasciò continuare senza interromperlo. «Imparavano a disegnare schizzi», continuò il ghiro sbadigliando e fregandosi gli occhi, sentendosi cascare dal sonno. «E schizzavano cose di ogni genere. Tutte quelle che cominciano per M». «E perché per M?» disse Alice. «Perché no?» disse la lepre marzolina. Alice non fiatò. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle. Nel frattempo il ghiro aveva abbassato le palpebre, era già belle in coma, quando, grazie a un pizzicotto del cappellaio, si svegliò di soprassalto con uno squittio e continuò cose che cominciano per M come macachi, meteoriti, memoria massima. Sai che si dice in linea di massima? Hai mai visto lo schizzo di una linea di massima? Per la verità, adesso che me lo chiedi, disse Alice molto confusa, non mi pare. Allora faresti meglio star zitta, disse il cappellaio. Quest'altra villania era più di quanto Alice potesse sopportare. Si alzò profondamente disgustata e si allontanò. Il ghiro si addormentò di botto e gli altri due non sembrarono fare alcun caso alla sua partenza, benché lei di tanto in tanto si voltasse a guardarli, forse sperando che l'avrebbero richiamata indietro. L'ultima cosa che vide fu che stavano cercando di pucciare il ghiro nella teiera. «Comunque lì non ci ritorno più», disse Alice incamminandosi per il bosco. «È il tè più stupido che abbia mai preso in vita mia!» E nel dire ciò, notò che uno degli alberi aveva una porta d'ingresso. «Ah, questo sì che è strano!» pensò. «Ma oggi tutto è strano, tanto vale entrarci subito!» ed entrò. E di nuovo si ritrovò nel lungo atrio accanto al tavolino di vetro. «Stavolta ce la devo fare!» si disse, e cominciò col prendere la piccola chiave d'oro e aprire la porta che dava sul giardino. Poi si mise a sbocconcellare il fungo di cui aveva conservato un pezzetto in tasca e quando fu alta non più di 30 centimetri entrò nel piccolo corridoio dal quale finalmente passò nel bel giardino tra le aiuole rilucenti di colori e i freschi zampilli delle fontane. All that you touch and all that you see, all that you taste, all you feel. And all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do. And all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in you, and the sun is a great spot on you. Aldo Busi ha letto Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll per Edizioni Feltrinelli, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it